L'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia e benvenuti all'Altra Europa. Siamo in diretta su Radio 24 con il nostro appuntamento settimanale per raccontare l'Europa da altre prospettive, da altri punti di vista. L'attualità e la politica europea viene narrata giorno per giorno qui da Radio 24. Noi il sabato cerchiamo anche di andare a scovare un po' quelle che sono le opportunità, quelle che sono le reali possibilità che l'Europa ci offre. Un programma in collaborazione con il network Euronet Plus, network di rete di radio, rete di radio europee, che cerca appunto di raccontare con le tante lingue diverse lo stesso percorso comune. Le coordinate per trovarci anche sulle nostre piazze virtuali: chiocciola Euronet Plus R24, oppure chiocciola Federico Taddia, il mio account personale su Twitter, oppure con gli stessi nomi su Facebook, appunto bacheche digitali che aggiorniamo minuto per minuto con tutti i link relativi agli argomenti che andremo a toccare. Siamo qua ogni settimana, un viaggio. Oggi partiamo da Milano, però partiamo in prospettiva europea. Still don't know what I was waiting for, and my time was running wild, a million dead end streets, and every time I thought I got it made, it seemed the taste was not so sweet. So I turned myself to face me, but I've never caught a glimpse how the others must see the faker. I'm much too fast to take that test. Changes. Turn and face the strain. Changes. Chains, si canta, e cambiamento è la parola chiave per parlare di innovazione sociale, ed è quello che sta accadendo a Milano in questi giorni presso l'Accademia di Belle Arti di Brera, una 2 giorni organizzata da Italia Camp, un bar camp europeo dedicato all'innovazione sociale, e tutto ciò promosso in collaborazione con l'Agenzia Nazionale per i Giovani nell'ambito del semestre europeo di presidenza italiana. Abbiamo con noi Antonio De Napoli, presidente di Italia Camp. Ciao Antonio, benvenuto all'Altra Europa. Buongiorno all'Altra Europa, buongiorno Federico. È un'altra Europa, è quella che vi immaginate voi, ma non solo sulla carta, perché siete assolutamente operativi. E tante parole da spiegare per cercare di contestualizzare quello che sta accadendo a Milano. Intanto, cosa si intende per innovazione sociale? Qual è l'accezione che voi promuovete? Esatto, siamo partiti ieri pomeriggio proprio da questa definizione, o meglio dalle tante definizioni che in Europa attraverso le organizzazioni qui presenti circolano sul termine innovazione sociale. Noi ovviamente ne abbiamo una che è contenuta all'interno del primo rapporto sull'innovazione sociale che abbiamo fatto con il nostro centro di ricerca, il CERIS, e noi intendiamo fondamentalmente un processo creativo partecipato e collettivo che è guidato da obiettivi sociali, che abbia appunto un impatto sociale misurabile sulle comunità e sui territori. Ovviamente questo fatto attraverso degli attori che parlano molto spesso linguaggi differenti, ma hanno obiettivi comuni e a volte nemmeno sanno di avere obiettivi comuni. Quindi attori sociali che vanno in una stessa direzione attraverso competenze chiare, con un impatto sociale estremamente misurabile, con degli indicatori molto chiari che abbiamo definito anche nel nostro rapporto. Con una forte partecipazione dei cittadini, di questi attori, anche questo fa parte dell'innovazione, la partecipazione con delle formule nuove, appunto per seguire anche le potenzialità del digitale, come il bar camp che state utilizzando in queste ore. Esatto, il barcamp noi abbiamo fa parte del nostro stesso nome, Italia Camp lo dice chiaramente, diamo la possibilità a tutti, dal grande guru dell'innovazione sociale danese austriaco, di confrontarsi con lo studente di 18 anni, magari studente di Brera, che viene qui e dice la sua in 5 minuti allo stesso tempo, diciamo, che ha il suo professore magari che interviene nello stesso panel. Quindi diciamo, questo ci sembra fare innovazione non soltanto bottom up, come va di moda dire, ma al di là delle modi ci sembra di farlo in modo estremamente concreto. E al di là delle definizioni, ciò che ci preme sottolineare di questi 2 giorni qui nell'Accademia di Brera, che ci ha ospitato in una cornice, devo dire, che unisce poi bellezza, innovazione e concretezza in un solo luogo, ciò che ci preme sottolineare sono i progetti, la concretezza che esce poi fuori da questi 2 giorni. Noi abbiamo parlato da imprenditoria sociale alle comunità autofinanziate spagnole, ci sono state diverse testimonianze, fra cui il Portogallo, di come fanno impact investing a attraverso diversi attori, comunità territoriali, Stato, regioni, ci sono stati gli incubatori con le start-up, insomma varie esperienze, tutte sotto il grande cappello dell'innovazione sociale, che ci portano a dire insomma che c'è un'Europa estremamente attiva, partecipata dal basso, che intende appunto cambiare non solo i propri paesi ma una visione generale di Europa. Antonio, ma è una Europa a velocità diverse, queste velocità sono in sintonia magari con la crisi, con il livello economico di quella nazione, o c'è altro? Ma guarda, posso parlarti del Portogallo, che è una delle cose che abbiamo visto stamattina, che insieme a tanti altri, purtroppo insieme a altri paesi europei, non se la passa benissimo di questi tempi, ma attraverso l'esperienza del ministro Maduro, piuttosto che altre situazioni che non so qui a descrivere nel dettaglio, è riuscita a porsi come best practice europea, quindi guardando sicuramente al tasso di disoccupazione, guardando le opportunità che il mercato del lavoro deve offrire agli studenti appena laureati, sono riusciti a fare un fondo molto serio, che è veramente una best practice in Europa, e stanno andando avanti alla grande, nonostante i loro problemi, i loro scandali. Quindi in questo senso io penso che ci siano sicuramente buone pratiche da replicare, ripeto, dal piccolo comune che intende diventare una smart city, andando sempre più su a livello di governi regionali e di governi nazionali. Ci lasciamo qui da Milano con degli appuntamenti molto chiari, non soltanto l'interesse comune per Horizon 2020, che appunto è un programma, come sappiamo, comunitario che più parla di questo, ma con diciamo tanta la volontà di continuare un percorso. Di fatto questa è una prima rete europea appunto che stiamo cercando di lanciare e che devo dire insomma già sta dando i primi frutti, con inviti vicendevoli a visitare appunto le altre organizzazioni qui presenti. Siamo molto fiduciosi che questi progetti possano contaminare tante altre realtà che si occupano di innovazione sociale, in quanto ci piace sempre sottolineare che non è la competizione che spinge queste organizzazioni a occuparsi di innovazione, ma è la collaborazione il quadro sotto cui dobbiamo stare tutti quanti. italiacamp.it è il sito ufficiale per conoscere le attività dell'associazione, oppure il blog di Antonio De Napoli, www.antoniodenapoli.it. Tutto ciò ovviamente anche sui vari social network dove siete molto attivi. Grazie davvero, complimenti e in bocca al lupo per la chiusura. Grazie dei lavori. Europa, ciao. Ciao Antonio. Adesso un Europost-it, le informazioni per chi sta viaggiando, poi ancora qua in diretta con l'altra Europa. Europost-it. Smart City, bando europeo da 28 milioni di euro. A tutti i ricercatori e innovatori in materia di Smart Cities, preparatevi, perché a dicembre 2014 si aprirà ufficialmente il terzo bando Eranet Smart Cities and Communities, dedicato a Smart City, Smart Community, Smart Government, Big Data, Smart Energy, mobilità alternativa e trasporti intelligenti. L'iniziativa offrirà fino a 28 milioni di euro di fondi per ricercatori, innovatori e partner. Le bozze dei progetti dovranno essere presentate entro la fine di maggio 2015. I progetti dovranno essere relativi a quattro aree specifiche: energia urbana e sistemi di trasporto smart, strumenti e servizi smart per l'energia urbana e trasporti, Smart Big Data, amministrazioni e cittadini smart. Per saperne di più, visitate il sito di Urban Europe, urbaneurope.eu. Dei risultati di questi due giorni può essere, dal punto di vista europeo, quello di prendersi l'impegno di far sì che le politiche migratorie siano uno dei punti centrali del prossimo Consiglio Affari Esteri a gennaio, in modo che ne seguano atti concreti. È quello che ha detto l'altro rappresentante per la politica estera dell'Unione Europea, Federica Mogherini, che poi ha aggiunto: prendo l'impegno a dare un seguito a questa conferenza nella prima metà del 2015 con un incontro ministeriale a Bruxelles con questo stesso formato e poi con appuntamenti a scadenza regolare, in modo che dopo questo avvio ci sia un proseguimento. L'ha detto durante la due giorni che si è appena conclusa a Roma, con un congresso europeo sul Corno d'Africa e le rotte dei migranti, a cui hanno partecipato tante personalità impegnate in prima linea sul discorso dell'immigrazione. E proprio di questo vogliamo parlare, però a modo nostro, quindi ribaltando un po' quelli che sono i luoghi comuni, quelli che sono anche i soliti punti di osservazione, e lo facciamo insieme a Giovanni Cobianchi, fotografo e reporter, autore di una bellissima esperienza personale e professionale, Je reviens, un viaggio al contrario sulle rotte dei migranti, raccontato per immagini e parole. Ciao Giovanni, benvenuto all'Altra Europa. Ciao a tutti. Allora, raccontaci la genesi del tuo progetto e del tuo viaggio. Ma il progetto è nato un po' per caso, un po' per gioco, perché un paio di anni fa ho deciso di fermarmi, di abbandonare la fotografia. Mi sono dedicato a lavorare con una comunità che ospita minori stranieri non accompagnati a Verona. Sì. E nel corso di questa esperienza ho avuto l'opportunità di sentirmi raccontare moltissime storie dei ragazzi che arrivavano, sono arrivati in Italia attraversando il deserto del Tenerè, subendo carcerazioni in Libia e poi attraversando il Mediterraneo con tentativi disparati. E in questi mesi ho cercato di incoraggiarli per scrivere un libro, ma non avendo accolto la proposta, perché stanchi di dover ricordare tutte le esperienze vissute, come dicevo prima, un po' per scherzo, ma poi in realtà non è stato uno scherzo, ho deciso di partire io e di cercare di percorrere un viaggio che mi portasse da casa mia fino a casa loro, per conoscere i contesti geografici e culturali da dove arrivano le loro famiglie. E quindi ho attraversato Lampedusa, la Tunisia, la Libia, il Niger, il Burkina, la Costa d'Avorio e il Mali, fino ad arrivare a casa di due ragazzi con i quali avevo lavorato per 8 mesi. Quindi un viaggio al contrario, le rotte migratorie le hai percorse cambiando verso, allontanandoti dall'Italia, allontanandoti dall'Europa. E trovando cosa succedeva man mano che aumentava questa distanza tra la tua casa e il luogo in cui eri? Ma quello che è accaduto è stato un viaggio molto bello, un viaggio molto duro, però nello stesso tempo molto bello. Come dicevi tu prima presentando la trasmissione, hai parlato di punto di vista. Un po', cioè, anzi, l'idea di questo lavoro è proprio dare un punto di vista totalmente diverso rispetto a questa realtà, all'immigrazione e all'immigrato. Io sono stato in Libia, un paese che adesso si trova in ginocchio per una guerra civile, per una situazione con cui completamente fuori controllo, ho trovato persone che mi hanno accolto a braccia aperte, mi hanno permesso di girare e documentare molte dinamiche difficili. Sono stato ospite di persone tra la Libia e la Tunisia che vivono in un campo profughi abbandonato, che mi hanno aperto la tenda, dato da mangiare. E lo stesso è continuato a capitare più mi spingevo a sud, verso la casa degli amici. Sono sempre state esperienze che mi hanno aiutato a continuare ad avere un punto di vista che a casa nostra, in Italia, soprattutto in questo periodo, è quasi impossibile trovare per cercare di dare un'interpretazione sensata e profonda a tutto quello che sta succedendo. Giovanni, che idea di Europa hai incontrato nel tuo viaggio, se l'hai incontrata? Riassumerlo così velocemente è complicato, però un'idea di Europa molto eterogenea, perché per fortuna io sono convinto che la differenza la fanno le persone, i singoli. Certo. E ho trovato un'Europa che continua comunque a sfruttare un'Africa che non è solamente l'Africa povera e derubata, perché l'Africa è anche un'Africa come l'esempio dell'Angola, che sta diventando proprietaria delle infrastrutture in Portogallo e sta costringendo i portoghesi a emigrare in Angola. Però ho trovato anche un'Africa come il Niger, che è ancora sfruttata da multinazionali straniere che costringono persone a non poter più vivere nella loro terra perché stanno diventando luoghi invivibili. Quindi diciamo che gli esempi potrebbero essere molteplici. Giovanni, il tuo lavoro ora cos'è diventato? Una mostra, se non erro, e un libro? Sì, il lavoro, poi l'idea di questo progetto era sin dall'inizio quella di portarlo poi a divenire un libro, che è stato stampato da un mese. Sì. E che sto distribuendo con delle mostre itineranti sul territorio italiano. Tra l'altro in questo momento mi trovo a Molfetta, dove ieri abbiamo fatto l'inaugurazione della mostra, che rimarrà fino al 7 di dicembre, e poi la porteremo invece in provincia di Lecce. Perfetto. E il sito del progetto è jerevien.org, oppure il tuo sito personale per trovare tutte le informazioni, giovannicobianchi.it. Grazie davvero e complimenti per questo ottimo lavoro. Ciao Giovanni. Grazie a voi, buon lavoro. Ciao. Europostit. Tirocini per traduttori in Lussemburgo. Il Parlamento europeo propone tirocini di traduzione di 3 mesi presso il Segretariato Generale. I tirocini per traduttori sono riservati ai titolari di diploma di laurea e hanno l'obiettivo di consentire ai partecipanti di completare le conoscenze che hanno acquisito nel corso dei loro studi e di prendere dimestichezza con l'attività dell'Unione Europea. I tirocini per traduttori si svolgono esclusivamente a Lussemburgo, presso la Direzione Generale per la Traduzione e l'Interpretariato. Trovate più informazioni sulle condizioni di ammissione e sulle candidature sul sito del Parlamento Europeo. europarl.europa.eu/aboutparliament nella sezione tirocini. I got rights, you got rights, we've all got rights, we've all got rights. Gotta have a home, gotta be well fed, have a place to learn and rest your head. We've all got rights, we've all got rights, gotta have a say. La canzone per bambini che parla di diritti umani, sì, perché vale tutto quando si fa educazione, a maggior ragione quando si fa educazione non formale. Giovedì a Padova si è tenuto il workshop La cittadinanza globale in Europa, in collaborazione con l'Università di Padova e dell'Associazione Amici dei Popoli. Ci ha incuriosito questa attività, ci ha incuriosito soprattutto perché abbiamo scoperto il ruolo della formatrice del Consiglio d'Europa. Sapete che la Commissione Europea e il Consiglio d'Europa promuovono e valorizzano l'educazione non formale, questo vuol dire che ci sono anche professionisti appunto impegnati sul territorio per promuovere e instradare questa educazione non formale. Diamo quindi il benvenuto a Eva Boef, formatrice del Consiglio d'Europa. Ciao Eva. Ciao, salve a tutti. Cosa fa la formatrice del Consiglio d'Europa? Cosa fa la formatrice del Consiglio d'Europa? Promuove appunto l'educazione ai diritti umani attraverso l'educazione non formale. Quindi si propongono delle attività. Prima si fa un'attività, ci si siede a cerchio, si discute e poi si riflette su ciò che si è fatto, quindi non è la lezione frontale, ci può anche essere una parte di lezione frontale, ma soprattutto il concetto fondamentale è che i partecipanti hanno delle conoscenze che vanno tirate fuori, valorizzate assieme e attraverso delle attività che possono essere delle simulazioni come quella che abbiamo fatto giovedì, o delle attività di discussioni, o attività che usano molto anche la creatività. Questo per dare la possibilità a tutti i tipi di intelligenze presenti in un gruppo di svilupparsi e di emergere. Quindi lavori prevalentemente, immagino, presso le scuole, le associazioni, ambiti educativi? Allora, io ho sempre lavorato in ambito sia locale, quindi regionale, qui in Veneto, a livello scolastico, dalla primaria alla secondaria di secondo grado, costruendo appunto dei laboratori, e sia a livello internazionale o un paio di volte direttamente al Consiglio d'Europa nei centri giovanili di... io ho lavorato a Budapest, ma c'è anche Strasburgo, dove c'è anche la Corte Europea dei Diritti Umani, fra l'altro. E sì, ho sempre lavorato su entrambi i livelli. Penso che sia importante sia il locale che l'internazionale. Sentivo prima Giovanni che la differenza la fanno le persone, quindi sono assolutamente d'accordo su questo. È un lavoro che certo particolare, perché si lavora su parlare di diritti umani, educare i diritti umani è un ambito enorme, per cui il laboratorio va adattato all'età dei partecipanti, al gruppo che hai davanti, che è sempre diverso, può essere un gruppo di bambini delle elementari come un gruppo di 20 quasi formatori che devono appunto imparare un po' il mestiere. E i temi sono appunto vari, ultimamente si è parlato molto di violenza contro le donne, di combattere, così, combattere una brutta parola, però comunque affrontare l'odio online, e soprattutto quello che a me interessa maggiormente, progetti relativi all'apprendere ad apprendere, all'imparare ad imparare, per aiutare i ragazzi e le ragazze a trovare in qualche modo un lavoro e, certo, insomma, sì. offrire anche l'Europa per le mille, le molteplici opportunità, esatto, che può far scaturire. Grazie davvero, Eva. Allora, le coordinate, allora, www.coe.it è il sito del Consiglio d'Europa. Tu immagino sei rintracciabile e... Ius. Sì? Hai un sito? Hai una... Cioè, allora, quello del COE è www.coe.int, poi sì. /youth giovani. Perfetto. E, ho una mail. Sì, vuoi darla? Sì, ok. Perfetto. Se qualcuno... Certo. mail@basciu.org. Perfetto, grazie davvero, complimenti, grazie per il bel lavoro. Ciao, ciao, ciao. Arrivederci, ciao, ciao. Un euro post-it e ci fermiamo per la pubblicità, poi ancora qua in diretta con l'Altra Europa. Europost-it. Usa internet col cuore. No all'odio, no all'intolleranza sul web. No Hate Speech è il titolo della nuova campagna lanciata dal Consiglio d'Europa per tutelare i diritti umani e contrastare fenomeni di odio e di intolleranza sul web. Il fine è quello di coinvolgere i giovani in azioni che contrastino questi comportamenti e partecipino fattivamente alla campagna No Hate Speech Movement. La campagna, condotta in Italia dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, vuole sensibilizzare i giovani internauti su tutte le forme di odio e intolleranza verso il diverso manifestate online ed evidenziare l'urgenza di combattere l'incitamento all'odio. Per saperne di più, nohatespeech.it. Sabato da Federico Taddia, questa è l'Altra Europa, mi trovate su Twitter e su Facebook. Il brano che state ascoltando è di un duo pop svedese, suonerà il 20 dicembre al Circolo degli Artisti di Roma. E voi starete dicendo, vabbè, beh, che c'è? Beh, c'è, perché tutto ciò è legato al tema che stiamo andando a toccare. Partiamo da quello che accadrà il 5 dicembre con Europa Creativa, che diventa live a Roma presso il Maxi di Roma, l'Ufficio Cultura e l'Ufficio Media di Roma del Creative Europe Desk Italia organizzano un workshop su Europa Creativa, portando i protagonisti, cioè i vincitori delle prime call del sottoprogramma Cultura e del sottoprogramma Media di Europa Creativa. Insomma, sarà una giornata per ripassare questo importante, importantissimo progetto, facendolo con alcune esperienze che hanno ottenuto i finanziamenti e rilanciando anche le prossime call, una delle quali proprio è legata al brano musicale che stiamo ascoltando, e adesso andiamo a capire il perché. Vi presento gli ospiti intanto: Alessandra Tomasina di Digital Tale, capofila del progetto della call videogame. Ciao Alessandra, benvenuta. Buongiorno a tutti, ciao. Progetto che si chiama, scusa che ho perso il foglio che avevo in mano, è Super Awesome Brigade. Eccolo, scusami, sì, è vero. Poi Marianna Massimiliani, responsabile delle relazioni internazionali del Circolo degli Artisti di Roma. Ciao Marianna. Ciao, buongiorno a tutti. Ed Emilia Garda del Dipartimento di Ingegneria Strutturale, Edile e Geotecnica del Politecnico di Torino, project leader di un progetto che ha vinto la cooperazione. Ciao Emilia. Ciao. Eccola lì. Allora, partiamo da Alessandra. Alessandra, cosa c'entra l'Europa Creativa con un videogame? Innanzitutto siamo molto onorati del fatto che il progetto sia piaciuto, e c'entra in quanto per una volta tanto, anche per un videogioco, ci siamo riproposti di attingere i personaggi e le ambientazioni dalla cultura, i capisaldi della cultura europea, sì. Perché i personaggi saranno tutti tratti dalle pagine della storia, della letteratura e della mitologia europee. È una cosa un po' particolare perché il giocatore controllerà il personaggio principale, diciamo, tra virgolette, come se fosse uno, ma in realtà è una brigata, cioè un manipolo di eroi. E quindi ci troveremo a controllare e a far combattere fianco a fianco Dorian Gray e Elisabetta II, Giovanna d'Arco e Dracula, il dottor Jekyll e il dottor Frankenstein, in situazioni un po' paradossali che reinventano, se vogliamo, traducendoli in un linguaggio più moderno, i personaggi che ci hanno perseguitato negli anni della scuola o che ci hanno lietato in anni di lettura e controllandoli in un gioco, quindi in un contesto un po' diverso dal solito, ecco. Quindi insomma, il giocatore si trova immerso in quello che è il patrimonio culturale storico europeo, però con delle vesti diverse, ludiche, però appunto giocando con i personaggi che costituiscono il tessuto culturale europeo. Alessandra, cosa significa partecipare a un progetto europeo con un videogioco? Avete trovato partner, avete chiesto finanziamenti, avete ottenuto un finanziamento di quanto? Di 150.000 euro. Uh-huh. Che è quello che vi aspettavate ed è quello che vi permette di realizzare l'intero progetto? Beh, tutto no, perché al contrario di quanti molti si aspetterebbero, realizzare un gioco non ha esattamente un budget hollywoodiano di questi tempi, però possiamo parlare anche di milioni di euro. Diciamo che sarà un buon aiuto, ci metteremo poi soldi anche noi, perché Digital Test autoproduce, autofinanzia la maggior parte dei suoi prodotti, li autopubblica anche, ma in questo caso per un progetto così ambizioso, perché sarà anche su console next gen, su PC, su Mac, distribuito in digitale, che sarà il futuro dei videogiochi, ci proponiamo di trovare dei partner anche di una certa caratura, quindi continuiamo a guardarci intorno, a chiedere ulteriori finanziamenti per limare sempre meglio il prodotto e poi cercheremo un partner per la pubblicazione. Certo, che insomma è poi anche parte intrinseca dei progetti europei trovare sia i partner ovviamente sia i cofinanziamenti, perché quasi mai sono progetti che finanziano il 100%. Grazie Alessandra, esatto. In bocca al lupo, aspettiamo di giocare qui in radio con il progetto, facci sapere quando sarà terminato il tutto. Emilia, che cos'è WoWoMo? MoMoWo sarebbe un acronimo Movimento Moderno Women, e il nostro progetto lavora sulla creatività femminile proprio a partire dal movimento moderno, e abbiamo deciso proprio di aderire al sottoprogramma cultura con un obiettivo di tipo sociale, proprio un obiettivo alto, l'idea di migliorare la qualità della vita in senso lato, e questo attraverso l'eliminazione delle diseguaglianze e dei conflitti. Per questo vogliamo proprio lavorare sul genere femminile, che crediamo ancora essere discriminato, sottorappresentato, e in questo senso rappresenta una minoranza. E questo proprio attraverso la cultura, attraverso l'implementazione, l'accesso alla cultura e al lavoro come veicoli di emancipazione. Il movimento moderno è una tappa storica fondamentale, è il momento in cui le donne si emancipano, cominciano a conoscere il lavoro, cominciano a uscire dalle case e confrontarsi con gli uomini. Quindi l'idea è proprio quella di partire dall'esperienza delle pioniere del movimento moderno, pensiamo a Charlotte Perriand, che ha lavorato con Le Corbusier, Margarete Schutte-Lioski, e gettare un ponte tra le nuove e le vecchie generazioni, per dare alle giovani la consapevolezza delle loro capacità e cercare appunto di migliorare l'ingresso nelle professioni, chiaramente dell'architettura, dell'ingegneria, della costruzione e del design. Certo, ci sarà una mostra itinerante nei vari paesi partner, Italia, Portogallo, Spagna, Paesi Bassi, Slovenia, Francia, workshop, scambi tra studenti, appunto rimanendo nel campo dell'architettura, del design e dell'ingegneria, un budget se non erro di 2.500.000 euro finanziato al 50% da Europa Creativa, giusto? Sì, esattamente, il cofinanziamento è tutto interno al lavoro universitario, perché siamo tutte equip legate all'università, tranne la Slovenia che è un centro di ricerca ed un museo, e poi c'è anche l'Istituto Superiore dei Sistemi Territoriali che è un altro comunque centro di ricerca, per cui riusciamo a cofinanziare con il nostro lavoro interno delle nostre equip. Uh-huh. Insomma, questo è anche il link sempre più stretto tra il mondo universitario e l'Europa, passa per fortuna anche attraverso questi finanziamenti. Grazie Emilia, complimenti a te e a tutto il team di lavoro. Andiamo da Marianna invece. Marianna, il Circo degli Artisti di Roma con questa nuova call, cosa avete combinato? Ma in realtà stiamo facendo parte di un progetto che nelle premesse sembra davvero molto interessante. Noi siamo stati contattati da il capofila di questo progetto, che è un locale di Bruxelles, l'Ancien Belgique, sì, e in quanto rispondenti a dei criteri che venivano cercati in locali delle, diciamo, principali città europee. E quindi rispondenti a alcuni criteri di programmazione e di, diciamo, anche di struttura vera e propria che ognuno ha, siamo stati contattati e coinvolti in questo bellissimo progetto riguardante la musica emergente europea. Mm-hmm. Insomma, una piattaforma, se ho capito bene, di locali, esatto, 13 club per ora, coordinati, appunto, dove l'obiettivo è quello di far suonare singoli e gruppi emergenti. Sì, diciamo, l'obiettivo è quello di incentivare la presenza di band europee e non nazionali nella propria programmazione. Si parte però da locali che già hanno almeno un 30% di musica emergente nella loro programmazione. È proprio questo lo scopo, non andare a inventare niente di nuovo, ma andare a incentivare qualcosa che è già possibile e che può essere ovviamente migliorata e amplificata soprattutto. Come Circolo degli Artisti anche per voi è una novità, una collaborazione di questo genere? È una novità soprattutto perché abbiamo l'opportunità per la prima volta di confrontarci con delle realtà altamente professionali europee, da cui possiamo secondo me imparare tanto come locale italiano, insomma. Insomma, quindi è utile anche mettere il naso fuori dal proprio club, giusto? Credo. Grazie davvero, circodegliartisti.it. Tutte le informazioni, come sempre, c.europa.eu per scoprire anche quello che succederà il 5 dicembre al Maxxi, al Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo a Roma, con questa giornata di incontro, di confronto, di presentazione. C'è, come vi ho detto, c'è chi ha vinto i finanziamenti, chi avrà accesso ai finanziamenti, che è sempre un ottimo specchio, un'ottima cartina di tornasole per capire quelle che sono buone pratiche, anche imitabili, da cui prendere spunte. Poi c'è il rilancio delle prossime call, perché, come sapete, come abbiamo detto più volte, Europa Creativa, questo programma quadro da 1,46 miliardi di euro dedicato al settore culturale per il periodo 2014-2020, prevede queste call periodiche a cui si può partecipare presentando i progetti. E l'Europa Creativa, con il desk Italia presso il MIBACT, insomma, è presente quotidianamente per dare consulenze, per accompagnarvi per mano a tentare di partecipare a questi progetti. Adesso ci fermiamo, un Europostit, le informazioni per chi sta viaggiando, poi ancora qua con l'altra Europa. Europostit. Tirocinio all'ECDC a Stoccolma. Siete giovani laureati e vorreste fare un'esperienza all'estero? L'Agenzia Europea per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie Infettive, ECDC, cerca tirocinanti per un periodo dai 3 ai 9 mesi a Stoccolma. Avrete l'opportunità di mettere in pratica le vostre conoscenze nelle diverse aree di competenza del centro, come microbiologia, epidemiologia, scienze sociali e comunicazione scientifica. Per partecipare oltre la laurea è necessario conoscere bene l'inglese e un'altra lingua europea e non aver mai svolto tirocini presso istituzioni o organismi dell'Unione. È possibile candidarsi fino al 31 gennaio 2015. Per tutte le informazioni visitate il sito gioventù.org. Toliko buke na jednom mestu, siguran je vapaj za tišinom. Beton se raduje zelenilu, a oronule fasade sveže malteru. Nekadašnja kraljica iz srce grada budi se iz stoletnog sna. Korak po korak, zaljubljenici u njen izgled i dušu traže... Otto città, otto weekend, otto documentari e reportage per raccontare le nuove generazioni. Questo è l'obiettivo di un progetto chiamato Un Weekend con i giovani dell'altra Europa, finanziato col crowdfunding e ideato dal collega, il giornalista Domenico Naso, che è qua con noi direttamente da Belgrado, perché in queste ore è partito questo progetto, è il primo giorno di fatto di di racconto di un'altra Europa, partendo dai giovani, per i giovani che forse più lontani dall'idea di Bruxelles, forse i giovani che respirano un'aria nuova di questa Europa, i giovani che sta incontrando e vuole incontrare domenica per fotografare questa altra Europa contemporanea. Ciao Domenico, ben trovato. Ciao Federico. Allora, l'idea è questa, no? Di fare una serie di reportage da... Non diciamo l'Europa periferica, perché non vai ai confini dell'Europa, vai a cercare l'Europa giovane, vai a cercare l'altra Europa, quella che noi da anni così abbiamo definito, giusto? Sì, ho scelto 8 posti che non sono nel circuito più di massa, proprio perché voglio andare a cercare un po' di giovani che vivono fuori, come tu hai detto benissimo, dalle regole di Bruxelles, dal deficit, dal PIL, che non importano un po' a nessuno di questi giovani. E ho cominciato proprio da Belgrado, perché credo sia un po' una zona di confine tra quello che siamo e quello che potremmo essere se l'Unione Europea si allargasse un po' di più e con criteri più al passo con i tempi. E questa prima tappa, già dopo poche ore, perché sono qui da ieri sera, mi sta dando già tantissimi spunti veramente interessanti. Ho già incontrato oggi il nostro ambasciatore Manzo, sì, che mi ha spiegato benissimo qual è il quadro di questo posto bellissimo, che mi ha sorpreso. E nel pomeriggio invece partirò con gli incontri veri e propri. Oggi andrò prima a sentire un poeta slammer, un po' anarcoide, molto tipo impegnato in politica anche, e poi andrò ad assistere, per un caso, proprio oggi c'è un'occupazione di un cinema da parte di un'associazione molto attiva qui in Serbia. Andremo a scoprire quindi un po' questo lato un po' ribelle di una città che per molti versi invece sembra molto più fredda e conservatrice. Certo, leggevo il programma, che potete trovarlo qual è il sito ufficiale, il blog sul Fatto Quotidiano? Allora, ho il mio blog sul Fatto, ho il mio sito, che è www.domeniconaso.it, dove ci sarà tutto quello che farò, video, foto, post e tutto il resto. L'hashtag è Destinazione Belgrado su Twitter, per questa prima tappa. Lì c'è il programma ora per ora, quindi potete seguire quello che sta facendo Domenico, perché l'idea è proprio quella di fare un percorso social, no? Un reportage anche social. Perché se io sono qui, per larga parte è merito di chi ha creduto in quest'idea e ha voluto dare qualcosa, ecco, in termini proprio di soldi, quindi in termini molto pratici, ecco. L'alto e il basso, la storia e la cultura, la creatività e la storia, l'underground, ma anche quello che è un po' più il mainstreaming, e questo è quello che appare dalla fotografia che vuoi dare della Belgrado che ti affronti a conoscere. E Domenico, proprio una battuta, la parola Europa lì a Belgrado in queste prime ore a cosa la associo, a cosa l'hai trovata associata? Io mi sto rendendo conto già da queste prime ore che loro si sentono già parte integrante di questa Europa. Proprio una cosa molto chiara, anche tra mille dubbi e contraddizioni, una diffidenza che loro hanno ancora, verso un Occidente più generalizzato, e non solo verso Bruxelles, verso l'Unione Europea, ma loro si sentono già parte di questa storia. Veramente, e si vede già dal fatto che l'euro qua è quasi una moneta in corso. Ok, insomma è già un'idea tangibile dell'Europa, che vivono nella loro quotidianità. Domeniconaso.it è il sito, quindi, per seguire l'avventura di Domenico. In bocca al lupo, e ricordiamo che anche per le prossime tappe il crowdfunding è attivo, quindi insomma se il reportage può continuare è anche grazie ai tuoi lettori. Ciao Domenico, buona Belgrado. Ciao. Ciao, grazie. Ciao. Questo grazie a tutti voi per essere stati in ascolto, un grazie alla squadra, Gianmarco Ferronato oggi alla parte tecnica, Miriam Lucchetti e Silvia Righini che con me hanno scritto la puntata, Giorgio De Luca in assistenza. L'altra Europa @radio24.it, la nostra mail se volete farvi vivi, oppure ci trovate sui social. Ancora ciao, ancora buon sabato da Federico Taddia.